Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Annuale dell'INPS, oltre la metà dei pensionati non arriva a 500 euro al mese, ma gli assegni per i giovani non sono a rischio, assicura il presidente Mastrapasqua. Chrysler, Fiat al 51% entro il 2011, la fusione si farà, dice Marchionne, non ha senso tenerle separate. La Lega insiste sui ministeri al nord, ma Alemanno rilancia la sfida e a Milano la campagna elettorale finisce a Palazzo di Giustizia. 718 i bambini italiani e stranieri di cui si sono perse le tracce nell'ultimo anno nel nostro paese, in due casi su tre a sparire sono bimbi sotto i 10 anni. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In apertura la relazione annuale dell'INPS con le sue luci e le sue ombre. Ci colleghiamo in diretta con Andrea Viali. Sì, gli effetti della crisi pesano anche sulle casse dell'INPS. L'istituto previdenziale ha comunque chiuso il 2010 con un avanzo finanziario di 1.397 milioni, in forte calo però rispetto a quanto aveva fatto nel 2009, oltre 16 milioni le pensioni erogate lo scorso anno con un incremento dello 0,2%, il 50% di queste non supera i 500 euro di importo, i pensionati sono però solo 13 milioni e 800 mila, quindi alcuni di loro percepiscono più di una prestazione pensionistica. Lo scorso anno ha visto anche un boom delle pensioni di anzianità, aumentate del 73%. Nella sua relazione il presidente dell'INPS Mastrapasqua ha assicurato che il sistema previdenziale italiano è in equilibrio e le pensioni dei giovani non sono a rischio. Sentiamolo. Comunque una cosa è certa, l'equilibrio e la stabilità raggiunti dal sistema non sono stati conseguiti a scapito delle giovani generazioni. Oggi, e giustamente, discutiamo della consistenza delle pensioni future. Ma senza questa stabilità le pensioni di giovani non ci sarebbero state. Il sistema previdenziale italiano è stabile e non ci sono ragioni per nuovi interventi, ha detto anche il ministro del lavoro Sacconi commentando il rapporto dell'INPS. Per ora è tutto. Grazie ad Andrea Viali. E sempre stamattina relazione annuale anche sullo stato della previdenza complementare in Italia. Il problema è sempre lo stesso, la previdenza complementare che resta al palo. Nonostante segnali di crescita, sono ancora troppo pochi coloro che si affidano al secondo pilastro. Poco più di 5 milioni, il 23% della possibile platea. Poca fiducia? Scarsa cultura in materia? Risorse latitanti? Quest'ultimo elemento ha il suo peso, se è vero come è vero che la flessione dei redditi delle famiglie, accompagnata dalla crisi, ha fatto raddoppiare le sospensioni dei versamenti contributivi negli ultimi 3 anni. C'è da dire che alla fine dello scorso anno i rendimenti sono stati positivi, le perdite del 2008 recuperate. Un autoelogio per la Covip, capace di vigilare e regolamentare in modo da limitare gli effetti della crisi. Ma il paese stenta e di questo passo le adesioni ai fondi non decolleranno mai. È sempre più evidente la necessità della pensione integrativa, fanno notare dalla Covip, visto che quella obbligatoria sarà al di sotto del 60% dell'ultimo stipendio. Difficile però pensarci quando si stenta ad arrivare a fine mese. Valeria De Rosa, Radio 24, il sole 24 ore. Ed ora andiamo a Parigi. L'Italia mantenga la vigilanza sui conti, raccomanda l'OCSE che stamattina ha diffuso l'Economic Outlook. Da Parigi il corrispondente del sole 24 ore Marco Mussanè. Buongiorno Marco. Buongiorno a voi. Allora, raccontaci in sintesi i dati dell'OCSE. Beh, per quanto riguarda l'Italia il rapporto è sostanzialmente positivo, nel senso che conferma il rapporto di 2 settimane fa, è in corso una ripresa, sia pure lenta, ci sono dei dati positivi sul fronte dei conti pubblici, in particolare del deficit che sta scendendo a una velocità superiore al previsto, restano i temi di fondo, le debolezze di fondo del paese, quelle che conosciamo da sempre, cioè una crescita piuttosto lenta, un tasso di produttività piuttosto basso e quindi un tasso di disoccupazione che resterà ancora elevato almeno nei prossimi 2 anni. Ecco Marco, sì vai pure. No, dicevo, dal punto di vista dei numeri l'OCSE prevede per il 2011 una crescita dell'1,1%, cioè lievemente inferiore all'1,2 previsto fino a 2 settimane fa e 1,6% nel 2012, mentre appunto la disoccupazione rimarrà stabile all'8,4% nel 2011 per scendere poi lievemente all'8,1% nel 2012. Ecco Marco, da Parigi oggi anche la notizia che il ministro dell'economia francese Christine Lagarde ha ufficializzato la propria candidatura alla direzione del Fondo Monetario Internazionale. La notizia era attesa, insomma il suo nome si faceva da giorni, però è arrivata l'ufficializzazione, anche se la Lagarde ha qualche impiccio diciamo in casa. Sì, la Lagarde che appunto ha annunciato un'ora fa circa, ha ufficializzato la propria candidatura alla direzione generale del fondo, ha un problema legato al ruolo che ha avuto come ministro dell'economia nel 2008 nel chiudere il lungo contenzioso tra lo Stato francese e Bernard Tapie sull'annosa vicenda della vendita di Adidas. Le viene imputato di aver optato per un arbitrato extragiudiziale che avrebbe favorito Tapie. In realtà questa mattina lei ha ribadito di avere la coscienza totalmente tranquilla, di aver agito con senso dello Stato e nel rispetto delle leggi, e ha quindi annunciato che anche qualora il 10 giugno la Corte di Giustizia della Repubblica dovesse decidere di aprire un'inchiesta nei suoi confronti, lei confermerà la candidatura perché è assolutamente sicura di uscire indenne da questa vicenda. Staremo a vedere dunque. Grazie al collega del Sole 24 Ore da Parigi, Marco Mussanè. E stamattina a Torino la presentazione della nuova Lancia. L'amministratore delegato Sergio Marchionne è tornato sul rimborso del prestito americano per la Chrysler. In diretta Andrea Malan. Sì, buongiorno a tutti. Marchionne è arrivato stamattina, ha praticamente appena sceso dall'aereo, ha incontrato i giornalisti al Museo dell'Automobile, dicendosi stanco ma contento per la giornata di ieri, storica, lo ricordiamo, appunto Chrysler ha restituito i prestiti al governo americano e Fiat è salita al 46%. Le domande sono state ovviamente quasi tutte rivolte al futuro, cosa succederà adesso. Marchionne ha ribadito che l'aumento al 51% della quota col 5% gratuito avverrà entro fine anno con il lancio di una Chrysler ecologica con tecnologia Fiat, ma potrebbe Fiat salire già prima se eserciterà l'opzione per acquistare la quota ancora in mano al tesoro americano, che è circa del 6%. In ogni caso diciamo che entro fine anno Fiat sarà sopra il 51%, ma già dal 1 giugno, già dalla settimana prossima, Chrysler verrà consolidata come una controllata Fiat, quindi aumenteranno i ricavi del gruppo, aumenteranno i costi, aumenteranno, sperano a Torino, anche gli utili, nel senso che Chrysler è tornata, lo ricordiamo, in nero nel primo trimestre di quest'anno e prevede per quest'anno, per il 2011, un sia pure lieve risultato positivo. Quanto alla fusione, che è l'altro tema grosso sul tappeto, Marchionne è stato molto più prudente, viste le polemiche che c'erano state nei mesi scorsi quando si era ipotizzato un trasferimento del gruppo a Detroit, ha detto che è essenziale nel lungo termine trovare il modo di integrare meglio le due aziende, non ha senso tenere due società separate, ma è un problema, ha detto, che non è urgente. Grazie ad Andrea Malan. Ancora proteste dei lavoratori Fincantieri contro i tagli di oltre 2.500 posti di lavoro, manifestazione ad Ancona, Castellammare, blocco della stazione della Circumvesuviana con i lavoratori che hanno obbligato alla serrata i commercianti della zona rompendo anche una vetrina, mentre resta il presidio nella sala consiliare del comune campano. I sindaci di Castellammare e Genova, Bobbio e Vincenzi, si sono sentiti e hanno annunciato che il 3 giugno saranno all'incontro presso il Ministero. Ma cosa c'è alla base della crisi di Fincantieri? Paolo Piacenza ha intervistato l'economista Gianmaria Grospietro. Fincantieri, come molte aziende manifatturiere italiane, riceve il buono e il meno buono del sistema paese. Il buono è la ricchezza del sistema di fornitura, la capacità di alimentare con innovazioni e con alto livello qualitativo. Il meno buono sono gli ostacoli ambientali. Per un'azienda che debba lavorare nei cantieri navali significa soprattutto disporre di accessi alla costa e di spazi per poter costruire delle navi in modo efficiente. C'è un limite anche nella capacità di intervento rispetto alle infrastrutture costruttive da parte anche dello Stato, che tra l'altro è il proprietario di Fincantieri. Ma Ma io credo che le difficoltà maggiori non vengono dall'istituzione statuale, ma vengono soprattutto dai poteri locali, perché la disponibilità di spazio dipende da questi ultimi. Come andrà a finire? Rimarremo bloccati dai veti reciproci? Io credo che sia necessario rendersi conto che il Paese ha bisogno di rilanciarsi e quindi bisogna mettere ragionevolezza da parte di tutti. Sicuramente è importante che il Governo metta a disposizione dei provvedimenti di politica industriale compatibili con le regole europee, ma non si può pretendere che questi provvedimenti e questi strumenti consentano di mantenere in piedi delle capacità produttive laddove queste non sono efficienti, né delle regole di gestione del fattore lavoro che non siano allineate con quelle dei paesi europei. Nel nord della Germania iniziano a riaprire gli aeroporti chiusi stamane a causa della nube di cenere dal vulcano islandese. Si torna a volare a Brema ed Amburgo. Berlino riaprirà alle 14. È terminata nella notte infatti l'eruzione. Il temuto pennacchio di fumo del vulcano si sta ormai dissolvendo. Questa volta nei cieli ci vorrà poco per tornare alla normalità, dicono gli esperti. Il perché lo spiega il professor Vincenzo Ferrara dell'Enea al microfono di Anna Migliorati. Le ceneri sono salite molto più in alto, quindi la parte iniziale, grossa, è stata sparata nella stratosfera. Poi sono continuati i rilasci normali, quelli della bassa atmosfera, che sono quelli che hanno dato problemi al volo, perché i problemi li danno a 5.000-6.000 metri di quota, di altezza. Gli aerei in stratosfera non viaggiano. Quindi si prevede anche che ci vorrà molto meno per tornare alla normalità. Certo, in atmosfera adesso, nella bassa atmosfera, quella che viaggia è il pulviscolo molto sottile, cioè le polveri che normalmente noi in città vengono chiamati PM10 eccetera, quelle sono polveri molto sottili, poi cascano giù con la pioggia, normalmente cascano. Le polveri più grosse naturalmente sono cascate già giù, quelle in stratosfera viaggiano per conto loro, quindi diciamo che il problema adesso è lo smaltimento di quello che è rimasto. Qualche giorno sarà tutto a posto per gli aerei, poi per la pulizia vera dell'atmosfera magari ci metterà un po' di più, ma quello non è un problema. È un successo investigativo ad altissimo livello e soprattutto un'altra grande vittoria dello Stato contro la criminalità organizzata. Così il ministro dell'Interno Maroni sull'arresto del boss Giuseppe Dell'Aquila. Ci racconta tutto Paolo Picone. Sì, buongiorno. La fine della latitanza di Giuseppe Dell'Aquila, boss reggente dei clan camorristici Contini e Mallardo, è arrivata all'alba, quando in una villetta bunker di Varcaturo, nel comune di Giuliano, in Campania, gli agenti della mobile di Napoli e dello SCO hanno arrestato il capo clan, alias Peppe Ociuccio, inserito nel programma speciale di ricerca del Ministero dell'Interno per i latitanti di massima pericolosità e inserito nell'elenco dei 30 latitanti più pericolosi. Dell'Aquila era ricercato dal luglio 2002 e, come ha spiegato il procuratore capo di Napoli poco fa in conferenza stampa a Napoli, è ritenuto uno dei fondatori della cosiddetta Alleanza di Secondigliano, un cartello di famiglie camorristiche che negli anni Ottanta dominò la scena criminale della città dopo aver inscenato una lunga sanguinosa guerra con altre bande criminali. Cresciuto all'ombra della potente famiglia De Mallardo di Giuliano, acquistò in poco tempo la fama di boss emergente che partecipava a tutte le riunioni decisionali. E per il momento da Napoli è tutto, linea allo studio. Grazie a Paolo Picone. Il rapporto annuale dell'INPS: oltre la metà dei pensionati non arriva a 500 euro al mese, ma gli assegni per giovani non sono a rischio, assicura il presidente Mastrapasqua. Chrysler, Fiat al 51% entro il 2011, la fusione si farà, dice Marchionne, non ha senso tenerle separate. E ripartiamo da quanto sta accadendo in Libia. La stagione delle autocrazie irresponsabili, sorde alla volontà popolare, volge al termine ovunque, ha detto il capo dello Stato napolitano in occasione della giornata dell'Africa, subito dopo aver rivolto un appello a desistere a coloro che ancora sfidano la comunità internazionale. Intanto a Tripoli nuova notte di bombardamenti e noi ci colleghiamo in diretta proprio con Tripoli e con Cristiano Tinazzi. Buongiorno Cristiano. Sì, buongiorno. Allora, seconda notte di bombardamenti, raccontaci le ultime ore. Sì, è stato meno impressionante rispetto alla notte prima, nella quale ci sono state almeno 18 esplosioni intorno a Bab el-Azizia, l'hotel dove la stampa internazionale è alloggiata si trova a poche centinaia di metri dalle esplosioni che sono avvenute appunto su degli hangar presumibilmente vuoti. Il cielo si è riempito di pulviscolo nero, pezzi di carta, insomma è stata la notte più terribile dalla dall'inizio dei bombardamenti della NATO. Ieri altre 6 esplosioni, pare sia stato colpita anche la zona del porto nuovamente, dove ci sono delle corvette, dei pattugliatori della Guardia Costiera Libica. La situazione... Com'è la vita di chi è rimasto a Tripoli? Beh, la vita è più o meno normale per quanto riguarda, perché al mattino poi si riprende la vita di tutti i giorni, si va a lavorare, i negozi riaprono, le file per la benzina sono ormai diventate chilometriche, si lascia la macchina anche per 2, 3, 4 giorni in fila, si va a casa e si lasciano le chiavi a delle persone che poi le spostano, perché non c'è più benzina, non si riesce a trovare, è difficile fare rifornimento. Quindi insomma la situazione si è aggravata da questo punto di vista, tant'è che sono apparse le prime biciclette qua a Tripoli, nessuno mai aveva usato biciclette prima a parte i bambini, invece adesso le mountain bike sono diventate un mezzo per muoversi. Sì, senti, sì. Il presidente del Sudafrica Zuma volerà lunedì prossimo proprio a Tripoli per discutere con il leader libico Gheddafi una strategia che gli consenta di lasciare il potere. Possiamo credere in questo tentativo? È difficile che Gheddafi lasci il potere a queste condizioni, si deve trattare sulla linea diplomatica, probabilmente l'Unione Africana potrà fare qualcosa in merito. I libici si aspettano una risposta positiva da parte dell'Unione Africana, certo è che la situazione in questi ultimi giorni non sta volgendo a loro favore anche a livello internazionale. Bisognerà vedere, però sicuramente Gheddafi non uscirà col capochino dalla Libia, non uscirà, e dovranno trovare una soluzione per far sì che lui comunque rimanga nel paese. Grazie a Cristiano Tinazzi da Tripoli. E noi passiamo invece alla politica italiana. Nel pomeriggio l'ufficio di presidenza del PDL, mentre prosegue il dibattito sullo spostamento dei ministeri da Roma. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, una corsa a strappi dunque quella tutta interna alla maggioranza sullo spostamento dei ministeri al nord. Ieri sera l'incontro tra Berlusconi e Bossi con l'intesa di riprendere il tema dopo i ballottaggi, oggi l'affondo del ministro Calderoli che ribadisce non c'è stato nessuno stop allo spostamento dei dipartimenti al nord. La questione, spiega Calderoli, è così importante da non poter essere strumentalmente interpretata come semplice argomento da campagna elettorale, e comunque garantisce il ministro, il presidente Berlusconi ci ha dato la sua parola. Argomento dunque quello dello spostamento al nord di alcuni dicasteri o dipartimenti, la differenza non è da poco, che vede comunque il no di gran parte del Popolo della Libertà, a partire dal sindaco di Roma Alemanno, che chiede che sia lo stesso Parlamento ad esprimersi contro lo smembramento delle funzioni della capitale. Sul tavolo della coalizione di governo restano poi i temi della legge elettorale e delle riforme. Procederemo spediti, rassicura Berlusconi, dopo la fiducia ottenuta sul decreto omnibus, testo che tra l'altro vedrà il via libera definitivo questa sera. Nessuno crede più alle parole del Premier, attacca infine dall'opposizione Bersani, dalla presidenza del Consiglio Gianni Letta, replica: il paese non è allo sfascio. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. E a Milano i toni della campagna elettorale si fanno sempre più accesi. Finisce di nuovo a Palazzo di Giustizia la campagna elettorale di Milano. Con un esposto alla procura, il candidato del centrosinistra Giuliano Pisapia denuncia quelle che definisce azioni deliberatamente dirette a screditarlo. In pratica il comitato elettorale per Pisapia ha ricevuto la segnalazione di alcuni cittadini che riferiscono ad esempio la presenza di finti operai intenti a fare sopralluoghi in vari quartieri per la costruzione di quella che chiamano, una volta interpellati, la nuova moschea di Pisapia, oppure ancora la presenza in diversi mercati di rom o presunti tali e di panca bestia che distribuiscono volantini spacciandosi per sostenitori dello sfidante di Letizia Moratti. A confermare l'esposto è stato lo stesso Pisapia. Ho chiesto alla procura di fare le indagini, di cercare di individuare queste persone e verificare se ci sono o meno dei mandanti. Dal comitato Moratti la replica è secca: ognuno è libero di fare quello che crede, noi continuiamo a lavorare concretamente per la città. Il centrodestra ribadisce l'accusa a Pisapia di voler fuggire da un confronto diretto con il sindaco uscente, ma l'altra novità del giorno è stata scoperta dall'inchiesta.it, che parla di regalo di Moratti ai tassisti milanesi. Il giornale online pubblica infatti il testo dell'accordo siglato dal sindaco e da Decorato, che annuncia il blocco delle licenze fino a ottobre ottobre 2015. Paolo Piacenza, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È arrivata a Brembate Sopra, nel Bergamasco, la salma di Yara Gambirasio. A 6 mesi dalla sua scomparsa, il feretro della 13enne uccisa, abbandonata in un campo, è arrivato in paese dove sarà allestita domani la camera ardente. Sabato i funerali. E oggi è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Telefono Azzurro ha tracciato un quadro del fenomeno anche in Italia. 800.000 bambini e adolescenti spariti in un anno solo negli Stati Uniti, oltre 2.000 al giorno. Quello della scomparsa dei minori è un fenomeno in aumento che sta diventando in molti paesi una vera e propria emergenza. In Italia, secondo Telefono Azzurro, i bambini di cui si sono perse le tracce nell'ultimo anno sono 718. Tra i motivi delle sparizioni, il primato negativo spetta alla sottrazione, che riguarda più delle metà delle segnalazioni. In sostanza, è uno dei genitori a portare via il proprio figlio. Nel 18% dei casi si tratta invece di fughe da casa o da istituto, mentre per un minore su 10 il motivo della scomparsa non è specificato. Dalle statistiche di Telefono Azzurro emerge un altro dato che getta preoccupazione sulle condizioni dell'infanzia. In 2 casi su 3 a scomparire sono bimbi che hanno meno di 10 anni. E proprio oggi a Marsala si tiene la 10ª udienza del processo per uno di questi casi, la scomparsa di Denise Pipitone, sparita nel 2004 all'età di 4 anni. A rispondere di sequestro di minorenne è la sorellastra di Denise, Jessica Pulizzi. Jacopo Matano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Prime parole da juventino per Andrea Pirlo, il centrocampista della Nazionale che ha lasciato il Milan per iniziare oggi ufficialmente la sua nuova avventura in bianconero. Ci sono già grossi giocatori adesso, però sono sicuro che la società vorrà allestire una squadra ancora più forte, quindi sono sicuro che arriveranno dei grossi campioni. Ma ho giocato in tutti i ruoli del centrocampo, in tutti i moduli, quindi non c'è nessun problema a giocare col 4-3, 4-4-2. Sono a disposizione dell'allenatore e poi deciderà lui. Ed è tutto per questo GR24, il prossimo alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.